L'altro pianeta. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di ambientalismo nel nostro paese attraverso un libro, L'Italia diversa, scritto da Gabriele Salari e pubblicato da Gribaudo. Un libro che fa la storia dell'ambientalismo degli ultimi 35 anni e analizza il ruolo delle associazioni ambientaliste. Sentiamo l'intervista all'autore, realizzata da Laura Bettini e intervallata da alcuni brani del libro. Ancora oggi, se chiediamo a passanti nel centro di Milano cos'è il paesaggio, otteniamo le risposte più sorprendenti. Esso rimane un concetto astratto, spesso confuso con quello di panorama, e comunque associato a cartoline, immagini per i desktop dei computer e quadri esposti in pinacoteca. Il vocabolario ci informa che il paesaggio è l'aspetto tipico di una regione ricca di bellezze naturali, o anche il complesso di tutte le fattezze sensibili d'una località. L'Italia è sicuramente uno dei paesi con la maggior diversità di paesaggi in rapporto all'estensione del territorio, ed è anche il paese in cui la storia ha più profondamente plasmato il paesaggio, dove uomo e natura sono sempre stati coautori del risultato finale, che è sotto i nostri occhi, dai terrazzamenti liguri ai sassi di Matera. Per le associazioni ambientaliste come Italia Nostra e Touring Club Italiano, la difesa del paesaggio è sempre stata una battaglia centrale, tanto che nel 1977 viene anche proposta una ricognizione accurata dei paesaggi da tutelare del nostro paese. E parliamo non tanto degli esigui lembi di paesaggio naturale, nel senso di incontaminato dall'uomo, quanto di paesaggi in via di abbandono, di paesaggi deruralizzati. Gabriele, io vorrei innanzitutto che tu ci raccontassi com'è nato lo spunto, diciamo, per la scrittura di questo volume, L'Italia diversa. Chi ti ha chiamato e per proporti cosa? Poi tu da lì sei partito per un discorso molto più ampio, credo, rispetto a quello iniziale, ma insomma. L'idea è stata in questo caso di un industriale, Antonio Pinna-Berché, che mi chiamò per ricordarmi che il 2011 era un anno particolarmente importante per l'ambiente e l'ambientalismo. Erano 35 anni dal disastro di Seveso, che lui, essendo impegnato nell'industria chimica, ricordava particolarmente come un momento di presa di coscienza dell'industria. E disse, Pinna-Berché, dobbiamo fare qualcosa che rimanga, dobbiamo scrivere la storia di questi anni, perché in questi anni, da allora, l'ambiente in Italia è molto migliorato. Lui era molto ottimista. Beato lui, vogliamo dire, forse tu lo sei stato meno una volta che hai ripreso in mano tutto il discorso. Sì, ho cercato un po' di stemperare l'ottimismo ricordando anche tutto quello che è successo in questi anni in campo ambientale. Da lì è nata l'idea di ripercorrere un po' la storia dell'ambiente e anche dell'ambientalismo, di quello che hanno fatto le associazioni dal WWF, Italia Nostra, il Touring Club, la LIPU, al Fondo Ambiente Italiano, in tutti questi anni per difendere il bel paese sia dall'inquinamento sia per la tutela del paesaggio, del territorio. È stata un po' una storia a più voci, un lavoro corale. Che credo sia stato molto difficile da coordinare, perché comunque il libro non è costituito solo da quello che tu hai scritto, ma anche da una serie di interventi diversi di coloro che in questi 35 anni hanno lavorato per l'ambiente italiano, quindi coordinare il tutto è assolutamente stato una fatica immane, immagino. Beh, è stato anche un immenso piacere, perché devo dire che il libro ha mantenuto una parte positiva. C'è un'intera sezione che si chiama Ce l'abbiamo fatta, proprio per ricordare i traguardi raggiunti. Quest'anno sono 20 anni dalla legge che istituisce i parchi nazionali in Italia. Abbiamo oltre il 10% del territorio protetto, addirittura il 20% se parliamo anche delle aree marine. Ecco, la nota negativa arriva perché nella cronistoria che utilizzo nella prima parte del libro arrivo proprio al 2010, e quindi alla notizia in cui i parchi nazionali non hanno più un euro per lavorare, al di là di pagare gli stipendi ai dipendenti, ma non possono fare più ricerca scientifica, educazione ambientale, gli scopi per cui sono nati. E c'è stato anche un tentativo, ma ancora non si capisce quanto riuscito, di smembrare uno dei parchi nazionali storici, addirittura uno dei primi 5 parchi nazionali, quello dello Stelvio. Questo mi pare un esempio di quello che sta accadendo, nel senso che di notizie cattive come questa non ce ne sono poche nel panorama italiano, ma anche se guardiamo un po' fuori dai nostri confini nazionali non tutto sta andando bene. Siamo forse a un momento di svolta, dobbiamo decidere se andare avanti e quindi riprendere a fare ricerca, a fare più tutela, riconsiderare il nostro lavoro fino adesso, oppure fermarci qui, addirittura aprire la via a un'involuzione. Sì, fare ricerca, ecco, io penso ai ricercatori che lavorano si occupano di tutela della biodiversità e lavorano nei musei scientifici e naturalistici in tutta Italia, hanno una dotazione di fondi ridicola che mi vergogno adesso a dire, eppure i ricercatori italiani producono tantissimi risultati sulla biodiversità, spesso facendo ricerche anche all'estero. Se si credesse di più nel loro lavoro e nel fatto che ogni euro investito nella ricerca e anche nella tutela del territorio è un modo per generare occupazione, per generare turismo, per mettere in moto un meccanismo virtuoso, ecco che allora potremmo davvero affrontare la crisi economica e la crisi ambientale insieme, non scinderle, come purtroppo credo stia facendo in questo momento il governo, concentrando tutta l'attenzione sullo stato delle finanze e considerando la crisi ambientale tutto sommato un problema di cui ci si occupa a pancia piena. Invece non è più così, è proprio nel momento di svolta, nel momento di difficoltà che si compiono le scelte decisive per il futuro. Economia e ambiente mai come in questo momento possono marciare insieme. Ecologia non è sacrificio, è piuttosto un modo nuovo di interpretare la comprensibile ricerca di benessere e di ricchezza della nostra società. Ma quale ricchezza? I fiumi e il mare sono il nostro capitale più duraturo, un capitale lasciato a se stesso per decenni e ora da rivalutare. L'agricoltura è un'altra straordinaria fonte di riscatto ambientale, anche se non è più quella dei nostri nonni e mai più lo sarà. Un'opportunità da non sprecare è anche la biodiversità dei nostri ecosistemi forestali, molto superiore a quanto ci immaginiamo, ma anche sottoposta a nuove minacce, come il cambiamento climatico. Parlando di ecosistemi, non possiamo dimenticare le città, dove ormai vive, in condizioni spesso critiche, più della metà del genere umano. Ed è proprio qui che si gioca la partita più difficile della sostenibilità. Fiumi, mare, coste, laghi, campi agricoli, boschi, montagne e città perdono il proprio carattere di astrattezza se li intendiamo come le tessere del nostro paesaggio, che nel saggio di Massimo Quaini diventa la nostra autobiografia collettiva. In questo antico concetto, per lungo tempo confinato agli studi di storia dell'arte e ora riletto con lo sguardo penetrante delle scienze umane, sociali e naturali, ritroviamo in sintesi cosa resta da fare. Se negli anni 60 le prime associazioni che si occupavano di ambiente e conservazione avevano coniato lo slogan Italia da salvare, ora forse bisognerebbe aggiungere Italia da rifare. Una speranza forse può venire proprio dalle associazioni che tu hai contattato e anche dai cittadini che in qualche modo adesso si stanno riunendo e stanno ripensando il loro modo di vivere nelle nostre città e nel nostro paese forse. Le associazioni raccolgono migliaia di volontari, a loro davvero deve andare il nostro grazie, perché rappresentano un'altra faccia dell'economia, quella che fa aprire oasi e riserve naturali, oltre 100 quelle del WWF, oltre 30 quelle della LIPU, tutti i centri del FAI, ecco, tutte realtà tenute in piedi dai volontari. E in realtà che dimostrano anche lì come si possa creare un circuito positivo. Penso alle cooperative agricole che coltivano la terra nelle aree protette, a quelle che fanno educazione ambientale. Penso al Bosco di San Francesco, per esempio, che è stato da poco riaperto vicino a Assisi, proprio si entra dalla piazza principale di Assisi. Quello è il lavoro di un'alleanza tra tanti soggetti, tra lo Stato italiano, la Chiesa che è proprietaria di parte dei terreni, una banca che ha fatto una donazione, un'associazione di volontari. Ecco come l'Italia diversa, che è il titolo di questo libro, può camminare insieme. Quello che tu hai fatto agli ascoltatori è un bellissimo esempio di come si può lavorare tutti insieme per un obiettivo unico. imprese, cittadini, istituzioni e così via, mentre tante volte sono solo i cittadini a impegnarsi, solo lo Stato a impegnarsi e le cose alla fine non vanno in porto. C'è una buona notizia che tu dai in questo libro, perché abbiamo parlato anche di, abbiamo finora dato la parte negativa, diciamo. C'è una buona notizia che è quella che riguarda i boschi italiani. Tu tra l'altro da molto tempo collabori con il Corpo Forestale dello Stato, quindi è un tema che conosci bene. Che cosa sta accadendo nel nostro paese? Nel nostro paese i boschi stanno avanzando, potremmo dire avanzando a vista d'occhio, questo in gran parte grazie all'abbandono di terreni che prima erano coltivati, quindi di per sé il motivo non è positivo, perché anche l'agricoltura è importante che rimanga come presidio del territorio. Però indubbiamente il fatto che torni vegetazione, e quindi vegetazione spontanea, vegetazione autoctona, e quindi si stia un po' rinaturalizzando il paese, anche laddove erano stati fatti interventi di rimboschimento artificiali, piano piano sta riprendendo il sopravvento la vegetazione naturale, e lentamente si ricostituisce quello che era l'ambiente naturale, che non è quello che vediamo oggi. Gli storici del paesaggio ci ricordano che qualche secolo fa la pianura padana, per esempio, era coperta da boschi, era popolata da cervi e da orsi. Ecco, verso quella situazione sicuramente non torneremo, ma la collina italiana invece è sempre più verde, e questo è un elemento positivo anche per il consolidamento del suolo. Questo nonostante i devastanti incendi che comunque ogni estate vengono riportati dalle cronache, quindi... Gli incendi sono sicuramente una piaga del nostro paese, e per fortuna c'è un reato di incendio che è previsto da 10 anni, questo è un altro dei passi avanti fatti negli ultimi anni. Però tutto sommato un incendio, il fuoco che passa, non distrugge un terreno per sempre. Il fuoco è distruttore ma anche motore di vita, e con il nostro clima la macchia mediterranea si riprende abbastanza in fretta. Il suolo che purtroppo non si riprende ed è in una situazione di non ritorno è il suolo che viene coperto dal cemento dei capannoni industriali, dal cemento di nuove strade. Ecco, un suolo cementificato non tornerà mai più alla situazione originaria. Questo non lo diciamo nonostante per esempio uno possa intervenire e distruggere il capannone o distruggere la casa inutile, abbandonata, resterà sempre un suolo inutilizzabile o comunque per un tempo veramente lunghissimo. Sì, è una sorta di ground zero del paesaggio, perché intanto un terreno agricolo è un terreno fertile, e un terreno fertile perde le sue caratteristiche quando viene ricoperto da asfalto o da cemento, e comunque sì, gli interventi di rimozione di asfalto e cemento sono talmente costosi, pensiamo solo all'abbattimento dei tanti ecomostri che pure si stenta a fare perché ha dei costi insostenibili, e quindi ecco, dobbiamo capire che prima di costruire nuove palazzine quando ci sono tante case sfitte, nuovi uffici quando ci sono uffici e capannoni vuoti, forse dovremmo pensarci due volte, perché perdiamo terreno agricolo prezioso e saremo costretti a importare i prodotti agricoli che non siamo più in grado di coltivare noi stessi. Tra l'altro ci sono molte possibilità per riutilizzare e restaurare, rimettere in uso tutto ciò che è il patrimonio edilizio esistente in Italia, e questo potrebbe comunque comportare essere un motore per l'economia, perché comunque ci sarebbe da lavorare per le imprese, comunque si darebbero posti di lavoro, comunque le cose andrebbero avanti, no? La green economy credo che non sia solo uno slogan, ma è una realtà, lo dimostrano le migliaia di posti di lavoro creati dalle fonti rinnovabili, per esempio, per le quali speriamo che il governo confermi un sostegno. Questo è i posti di lavoro che nascono adesso in Italia, uno su quattro o uno su tre a seconda delle ricerche è proprio nel settore della green economy. Dopo un incendio, in 10-15 anni torna il bosco, mentre una volta costruito un capannone industriale, è finita. La demolizione, se mai la si concepisse, è costosissima e comunque non tornerà mai più un suolo agricolo produttivo. Rimarrà un buco. Si tratta di una perdita che costerà carissima in termini di benessere. Ne va della nostra capacità di nutrirci. Ci prepariamo a periodi siccitosi in cui i suoli produrranno meno. dovremmo avere più territorio a disposizione da coltivare e invece ne abbiamo sempre meno. Ora possiamo permetterci di comprare a costi accettabili anche in Africa, ma un domani, dopo che ci saremo bruciati i terreni migliori, e costerà caro comprare all'estero il cibo? In questa seconda parte dell'Altro Pianeta parliamo un po' delle nuove trasmissioni di Radio 24 che si occupano di ambiente e sostenibilità ambientale. Partiamo subito da Smart City, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì dopo il GR delle 21, sottotitolo La città intelligente. La conduce Maurizio Melis. Maurizio, allora innanzitutto cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa si intende per Smart City. Sì, ciao Alessandra. Beh, insomma, è veramente difficile, credo, dare una definizione univoca di Smart City. Anzi, penso che proprio facendo questo progetto forse ci faremo un'idea più precisa di che cosa si potrebbe intendere per Smart City. Però una cosa è certa, ci sono alcuni ingredienti che probabilmente non possono proprio mancare. Uno di questi l'hai appena citato ed è la sostenibilità ambientale. Tra l'altro Smart City nasce un po' anche come prosecuzione del precedente progetto che si chiamava Mr. Kilowatt, che era tutto incentrato invece su questo aspetto, soprattutto energetico. Certamente una città intelligente deve incorporare questa sostenibilità ambientale ed energetica, però poi ci sono molti altri aspetti. Ecco, non è solo sostenibilità ambientale la Smart City. Possiamo fare anche qualche altro esempio di... Qualche esempio come se si può fare. Per esempio pensiamo alla vivibilità, pensiamo a un tema come la mobilità. Se noi ci concentriamo solo sull'efficienza e la sostenibilità dei mezzi di trasporto, io dico spesso ci potremmo trovare tutti in coda sull'auto elettrica. Avremo veramente una città intelligente quando saremo tutti in coda sull'auto elettrica? Beh, sarà meno inquinata, ma forse proprio intelligente non è. Un altro aspetto fondamentale è il rapporto con la pubblica amministrazione, che può essere sicuramente più snello, sappiamo tutti i problemi della burocrazia, ma per esempio può essere improntato in modo tale da ridurre gli spostamenti, la necessità di perdere tempo, ma anche di prendere l'automobile o un mezzo di trasporto. Ecco, tra l'altro sulle Smart City c'è una grande attenzione anche da parte dell'Europa e possono piovere soldi importanti in questo senso. Di questi tempi di fortissime ristrettezze economiche, questo è uno dei pochi temi su cui c'è un forte impegno europeo e quindi c'è la possibilità di recuperare risorse. Questo vale per le aziende, ma questo vale anche per le pubbliche amministrazioni che col patto di stabilità fanno invece molta fatica. Ecco, lì c'è la possibilità di recuperare risorse che arrivano dall'Europa, da programmi nazionali di vario tipo. Possiamo fare un esempio concreto di quello che tu trasmetti in Smart City? Ci hai portato anche un file da ascoltare, di che cosa si tratta? Sì, c'è proprio un pezzettino che riguarda la pubblica amministrazione, proprio per andare in una direzione un po' diversa rispetto al passato, che riguarda la giustizia, altro tema ben noto in Italia, soprattutto quella civile lentissima. Ci sono aziende che non vogliono venire in Italia perché la giustizia è troppo lenta. C'è un progetto di cui abbiamo parlato giovedì a Smart City. È un progetto che ha come capofila l'Università della Bicocca per un sistema di giustizia virtuale. Io direi che ci sentiamo il file e poi forse posso aggiungere una parola, ma partiamo dall'ascolto. L'idea è quella di costruire appunto una piattaforma informatica che consenta al comune cittadino, attraverso delle modalità virtuali, di classificare, formalizzare e definire e risolvere in autonomia un contenzioso, in autonomia anche parziale. Immaginiamo uno scenario, per esempio, dove un cittadino voglia valutare la possibilità di contestare quello che ritiene un provvedimento illegittimo nei suoi confronti, come per esempio una multa. Il cittadino accede al portale e il sistema lo guida alla selezione della categoria del contenzioso. In caso di ambiguità, perché la richiesta può essere fatta anche in linguaggio naturale, verranno estratte delle informazioni automaticamente e il sistema avrà la possibilità di un'intervista guidata, dopodiché ha istruito una propria pratica e a questo punto gli può far vedere le diverse strade che ha a disposizione, quindi come può risolvere questo caso e quindi risolverlo attraverso una mediazione in autonomia oppure aiutarlo nella selezione del supporto legale necessario, quindi con la selezione di un avvocato, eccetera. Ecco Maurizio, vogliamo dire chi era la persona? Beh sì, Renza Messina, che è il responsabile scientifico di questo progetto, di cui è capofila l'Università della Bicocca. Vale la pena di aggiungere una cosa: l'idea è, naturalmente, ecco, stiamo parlando di contestazioni, diciamo, di contese legali così un po' quotidiane. Non parliamo certamente della criminalità organizzata o di casi di omicidio risolvibili in questo modo, però l'idea è che si possa addirittura arrivare a sentenza in questo modo per alcuni. Per alcune contese, per esempio di tipo commerciale, in alcuni paesi già si fa. Perfetto, grazie a Maurizio Melli, sia Smart City, la città intelligente, dal lunedì al venerdì sempre dopo le 21. Ma c'è anche un'altra trasmissione che si occupa di sostenibilità ambientale, sentite un po'. Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. Molti di voi avranno iniziato a familiarizzare con questa sigla, è la nuova rubrica di Radio 24 che va in onda dal lunedì al venerdì alle 6.55 dopo il GR delle 12 ed è curata da Paolo Piacenza. Allora Paolo, queste notizie dal futuro del 2015 che cosa sono? Il 2015 per noi italiani sarà l'anno dell'Expo. Noi con il sostegno dell'ente organizzatore partiamo per tempo per provare a immaginare come sarà. Ogni giorno Anna Rita D'Ambrosio che lo conduce partirà appunto da una notizia possibile, per esempio un programma, una previsione per il 2015 in materia di cibo, agricoltura, sostenibilità, ma anche tecnologia, nuovi stili di vita, cultura. Sarà di preferenza una notizia positiva, un auspicio. Poi analizzeremo molto brevemente questa notizia per capire quali benefici e quali ostacoli abbiamo di fronte per raggiungere quell'obiettivo. Quindi insomma si parte da notizie vere per vedere che evoluzioni avranno più o meno fra 3 anni. Grazie a Paolo Piacenza, vi ricordo il Gazzettino del 2015 in onda dal lunedì al venerdì alle 6.55 dopo il GR delle 12. E ora la rubrica articolo 9. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo con noi in collegamento oggi il dottor Sebastiano Venneri, responsabile per il MEA di Lega Ambiente. Buongiorno dottor Venneri. Buongiorno, ben trovato. Ecco, voi in questi giorni siete particolarmente in apprensione per quanto è accaduto con il naufragio della nave Costa Concordia. Lega Ambiente, la sezione mare di cui lei è responsabile, sicuramente ha ben presente quali sono i pericoli che circondano la nostra penisola. Ecco, le vorrei chiedere, prima di parlare della nave Concordia, quali sono i pericoli che corrono le coste italiane e in che punti maggiormente questi pericoli si possono verificare? Le coste italiane, essendo tra le coste più belle del mondo, ovviamente sono molto fragili, molto delicate ed esposte purtroppo ai traffici del Mediterraneo, in particolare ai traffici delle petroliere. Noi abbiamo 2 porti petroli, Trieste e Genova, che costringono le petroliere praticamente a costeggiare, a bordeggiare lungo tutta la nostra penisola prima di arrivare lassù in cima e portare il carico di greggio, e poi naturalmente le grandi navi delle crociere. L'Italia è una meta crocieristica importante, con Genova da dove partono molto spesso e con Venezia dove passano e arrivano tante crociere. Poi ci sono delle zone naturalisticamente straordinarie, penso alle bocche di Bonifacio che separano lo stretto che separa la Corsica dalla Sardegna, penso all'arcipelago toscano, che è teatro purtroppo dell'incidente di questi giorni, certo. Penso alle 30 aree marine protette che ospitiamo lungo la nostra penisola, alla città di Venezia che ho ricordato prima e al santuario dei cetacei, la più grande area protetta del Mediterraneo, il santuario Pelagos tra Sardegna, Toscana, Liguria e sud della Francia. Per quanto riguarda la nave Costa Concordia, oggi dovrebbero essere cominciate le operazioni di svuotamento dei serbatoi. Ecco, che tipo di operazioni sono? Sono delle operazioni molto complesse e delicate, peraltro insomma bisognerà capire quanto tempo ci vuole e se le condizioni meteomarine permetteranno di effettuare questa operazione di prelievo nel più breve tempo possibile. Bisognerà riscaldare questo liquido che è addensato dal freddo, dalla temperatura, quindi riscaldarlo per renderlo fluido e di conseguenza poterlo aspirare tranquillamente. Nel frattempo bisognerà evitare di sbilanciare la nave, perché ovviamente prelevare tonnellate e tonnellate di carburante significa alleggerirla e quindi di appesantirla di conseguenza con l'apporto di altre sostanze, acqua di mare in questo caso, e liberare finalmente dal rischio principale, che è appunto il rischio dello sversamento del carburante carburante, che è insomma un carburante particolarmente inquinante nei mari dell'arcipelago toscano. Certo, ma io vedendo le immagini alla televisione, come tutti noi, mi sono anche reso conto che per esempio la nave ha delle piscine e immagino che il carburante che serve per far funzionare la nave non è lo stesso che è servito per esempio per riscaldare questo enorme vascello. Ecco, tutte queste sostanze dove sono andate a finire? Le acque delle piscine, i combustibili di riscaldamento? Purtroppo quello è l'inquinamento attivo, l'inquinamento già in atto in quel tratto di costa, perché adesso noi stiamo parlando di un rischio potenziale di inquinamento, ma dimentichiamo che una forma di inquinamento puntuale, certamente non paragonabile a quello che deriverebbe dallo sversamento del carburante, ma comunque in atto già c'è. Una cittadina di 5.000 abitanti è andata giù e ha fatto un naufragio su un tratto di costa straordinario e particolarmente delicato come l'ecosistema costiero a sud del Giglio. Bene, in questa cittadina di 5.000 abitanti c'erano una serie di sostanze tossiche, di detergenti, di solventi, le colle degli arredi, i liquidi degli accumulatori elettrici, certo, i liquidi dell'impianto di condizionamento, il carburante per l'impianto di riscaldamento, insomma tutta una serie di sostanze che sono state adesso sono finite in fondo al mare e si stanno piano piano liberando, ripeto, in una zona molto concentrata. È un inquinamento significativo per quel tratto di costa. Certo. Dottor Venere, io la ringrazio per questa testimonianza, per la vostra esperienza e anche per il vostro lavoro. Speriamo che queste operazioni vadano per il meglio e che questo terribile incidente insegni quello che voi da tanto tempo dite, naturalmente, che le rotte e il mare e le coste vanno salvaguardate. Sono un dono enorme, importante, che la natura ci ha dato e dobbiamo cercare veramente di non sottoporle a questi terribili stress come la vicenda di Costa Concordia ci ha fatto vedere tutti quanti. Grazie, dottor Veneri. Grazie a voi. Io spero che questa tragedia sia l'occasione per invertire la rotta, in caso di dire, nelle politiche del mare, di tutela del mare nel nostro paese. Davvero, grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata. Anche per questa puntata dell'Altro Pianeta è tutto, ci risentiamo sabato prossimo.